Adesso io volevo scegliere con voi la strada da seguire, cioè se passare subito alle altre due redazioni che restano oppure discutere ora su queste due redazioni e rifare dopo. Ecco, non so, da un punto di vista funzionale è forse meglio andare avanti perché sennò ho paura che rimane un po' strozzato l'ultimo pezzo. Quindi io direi di fare. Sarei dell'opinione di fare le due redazioni che restano, poi fare una pausa e poi fare tutta la discussione sulle quattro. Però. Un'interruzione, perché direi molto umilmente, mi fa notare che tra queste due c'è una certa Certo, vicinanza, infatti e con questo quelle sì. altre c'è invece sono Questo tutte è troppo vero. Quindi questo è. prendi termini drastici Ah no, la benissimo, discussione. benissimo. Se va bene così, Limitavi il numero allora. delle domande, sì, Allora forse facciamo puoi. subito la discussione su queste due, io per me è indifferente. Facciamo subito la discussione sulle due, sembrerebbero Poi tu torna al mio posto. Allora tu torni al tuo posto, perfetto. Allora sono le 15:40, non circa. Benissimo, dobbiamo arrivare, non so, alle 4:30, insomma, neanche. 4:15, insomma, dobbiamo arrivare entro le 4:15. Facciamo una piccola pausa e poi cominciamo con l'ultima fetta di cose. Quindi sono aperti gli interventi sopra queste due relazioni, D'Uso e Valera. Scusami, io sono fissato, tanto devo dormirci sopra, insomma, perché. Chiedo scusa. Scusami Carla di questa confusione. Ma. Allora, ecco, D'Uso e De Pascale. Krüger? Storico, meno come filosofo nel senso stretto. Mi sembrava che ci sia stato diciamo, un aspetto meno, diciamo, che mancava un po', e questo è il progresso fra Kant e Hegel, che si basa sull'informazione su cui Hegel esponeva in questo tempo, sullo sviluppo, dello sviluppo della società moderna, diciamo. Hegel è stato, secondo me, un filosofo estremamente pratico rispetto a Kant. Kant, insomma, conosceva abbastanza bene il mondo moderno, però è stato sempre a Königsberg, è stato sempre un filosofo più o meno orientato verso la Kenntnis Theorie, dove non riusciva, secondo me, di collegare finalmente questi due poli del soggetto e dell'oggetto. E invece Hegel, occupandosi con la società moderna, riusciva a collegare questi due poli perché disponeva di queste informazioni. Lui si rendeva conto che la rivoluzione francese già è stata influenzata da questa, mi sembra, da questa contraddizione che c'è nella società moderna. Hegel parla della filosofia del diritto, parlava in termini molto chiari che la produzione di sempre più ricchezza produce anche un peuple, insomma, un proletariato. E questa tendenza che tendenzialmente fa saltare la società borghese è stato per lui un punto importante, mi sembra. E lui si rendeva conto anche perché ha letto soprattutto gli scritti economici inglesi. E allora cercava, mi sembra, una soluzione. E questa soluzione trovava secondo me nello Stato di una parte come punto di diciamo come clamor, diciamo del come parentesi, del tutto, e sul secondo lato nelle corporazioni, nelle associazioni. Allora, Stato che interviene in società e associazioni che danno una possibilità di rappresentanza sul livello dei interessi economici e sociali, sono i due punti dove Hegel riesce a collegare l'individuo soggetto e l'oggetto di tutto lo Stato, e in quale modo diventa secondo me il primo vero teorico dello Stato che interviene in società, dell'intervenzionstaat, secondo me. E questo mi sembra un progresso enorme da Kant, fra Kant e Hegel. E Hegel riesce a, come si dice, superare questo individualismo che alla fine, come diceva Troeltsch, per esempio, il teologo liberale Troeltsch, nel tempo del neo-idealismo, dove tutta questa discussione comincia di nuovo, riesce a superare questo individualismo che, come diceva Troeltsch, nell'ultima istanza finalmente porta avanti a un totalitarismo enorme, soprattutto si vede da Fichte, che comincia con il soggetto assoluto e finisce con che è un sistema insomma tremendo e totalitario, secondo me. Invece Hegel riesce a, insomma, a collegare i momenti, i due poli, il soggetto, il cittadino e lo Stato, il tutto, da scanze, in una maniera molto realista e, secondo me, finisco, sulla base delle informazioni nuove. Questo mi sembra un'influenza storico che finalmente in Germania arriva la conoscenza dei scritti inglesi, dello sviluppo sociale economico inglese, e ci si rendeva conto su questo sviluppo. C'è De Santis. Ma io in realtà, soprattutto per quanto concerne il periodo esaminato da Russo, sono d'accordo sul tipo di ricostruzione che è stato fatto. In particolare, così, discutendo anche sull'intervento precedente, io sarei favorevole ad una distinzione nel concetto hegeliano tra plebe e proletariato, nel senso che plebe è un concetto astorico. Almeno io presento un po' così, sembra un prodotto di qualsiasi società che produce troppa ricchezza e accanto alla ricchezza si produce il lusso. Per quanto concerne invece, e la plebe può essere ricca e povera, soprattutto nelle ultime elezioni inedite viene fuori questa plebe che non decisamente è connessa invece al lavoro. Al lavoro è connessa la classe, uso anche l'espressione classe, non stand, la classe lavoratrice che invece è sottoposta alle contraddizioni della società borghese, e dice il problema giustamente posto in rilievo dello Stato che interviene, cioè il momento della polizia che interviene a riequilibrare delle situazioni che, abbandonata a se stessa, la società civile, intesa solo come sistema dei bisogni, non è in grado di equilibrare. Quindi da questo punto di vista certamente c'è in Hegel una preparazione di uno Stato che interviene in rapporto alle disuguaglianze sociali generate dalla produzione moderna. Ora, questo rapporto, se è da proiettarlo verso il futuro o da intenderlo come un'acquisizione di una tradizione tedesca, qui non mi saprei pronunciare. Cioè, se Hegel adatta il concetto del Polizeistaat in rapporto alle nuove emergenze e quindi vede la questione in quel senso, oppure se è cosciente, come invece sembra apparire ancora da questi scritti inediti, dei pericoli che la società borghese potrebbe correre. Quindi il problema resta sempre tra un sistema di produzione, per così dire, che funziona su certi moduli e il sistema di distribuzione che va e può essere corretto. Quindi se si discute tutto il sistema o se ne discute soltanto una parte. E naturalmente, come altri, è fatto per questa seconda visione. Per quanto concerne specificamente, ripeto, la relazione di Duso mi sembra estremamente inattaccabile, quindi posso soltanto dire che sono pienamente d'accordo. L'unica cosa che vorrei sottolineare è che in fondo l'interpretazione che Hegel fa di Hobbes forse non fa grande giustizia al pensiero di Hobbes, che sin dall'inizio confessa di pensare l'uomo naturale a partire dalla società civile. E quindi è in fondo Hegel, come poi del resto appare chiaramente dai lineamenti di filosofia del diritto, vede il pensiero giusnaturalistico nelle sue due forme come momenti in cui si è per così dire cristallizzato contemporaneamente la storia istituzionale e culturale dell'Occidente, fino al punto che poi lui riesce a sistematizzare il tutto nella filosofia del diritto affidando alle prime due parti della filosofia del diritto, al diritto astratto, il problema proprio dell'origine dello Stato. Cioè, se noi pensiamo che cosa tratta il diritto astratto, il diritto astratto tratta il problema della proprietà e il problema del diritto penale, che sono i due problemi per cui, secondo tutta la tradizione, si pone il diritto come diritto dello Stato, e dall'altro lato che cosa tratta? Tratta la moralità come elemento che è evaso, per così dire, dall'ambito del diritto e lo riporta lì. Quindi in un certo senso direi che forse l'interpretazione che Hegel ha di Hobbes forse è un poco riduttiva, e in un certo senso, date le presupposti, tutte le differenze strutturali di pensiero dell'uno e dell'altro, in fondo hanno un concetto abbastanza simile della individualità, soprattutto se pensiamo che in fondo per Hobbes la libertà possibile dell'individuo è proprio la libertà che si può realizzare nei margini che restano liberi al movimento all'interno di uno Stato. Cesa? No, io non vorrei mostrare indifferenza per la relazione di Duso, nel senso di lasciare da parte tutto quanto l'apparato teorico, però avevo già visto la insofferenza con la quale i nostri colleghi storici stavano a sentire queste considerazioni, quindi non voglio affidarmi le loro reazioni. Peraltro volevo osservare che non mi ha sorpreso, perché corrisponde a un trend degli studi hegeliani, però malgrado questo un pochino lo devo rilevare, che Hegel ha scritto su temi politici degli scritti che sono estremamente concreti, no? Per ricordare i due più importanti che conosciamo tutti, la Verfassung Deutschlands e poi il Württemberg ce l'ha Stendel, no? Tra i quali passano 15-16 anni. Oh. Poi D'Uso di questi scritti non ha praticamente tenuto conto, si è soffermato invece sui frammenti di lezioni, sugli Hefte, su scritti incominciati nel periodo di Jena e compagnia bella, tutto materiale che, non dimentichiamolo, Hegel non ha mai dato alle stampe, no? Ora, e che quindi va considerato come lavoro in certa misura preparatorio, mentre per la Verfassung in Deutschland abbiamo addirittura una Reinschrift, il che faceva pensare che Hegel volesse pubblicarla, no? Per questi noi non abbiamo invece una seconda stesura, sono soltanto appunti o in vista di corsi di lezioni o per la propria elaborazione. E allora viene fuori questo problema. Come mai, che non sono io a proporre, l'hanno posto spesso gli interpreti, ben inteso, voglio soltanto ricordarlo, come mai lo Hegel della Verfassung Deutschlands, il quale imposta in termini così concreti il problema della organizzazione dello Stato, anche dal punto di vista di una ständische Verfassung, no? Quando per esempio prevede una sorta di monarchia federale, no? Quando prevede l'amministrazione dei corpi locali, cioè delle città e compagnia bella. Come si spiega che lo stesso, quando parla di Costituzione e introduce nel 5, ma in certa misura anche prima, l'idea di qualche cosa di simile a una ständische Verfassung, fa qualche cosa che, se con tutto il rispetto per lui, noi potremmo tranquillamente definire una speculativa Schwerberei, no? Dove compaiono i Freien, un di un Freien, no? Dove non c'è assolutamente nulla che fosse politicamente praticabile, no? Perché se noi prendiamo i pezzi, gli accenni del 1805 e vogliamo tradurli in uno schema costituzionale, non otteniamo assolutamente niente, proprio non otteniamo assolutamente niente. Ora, la mia domanda è questa, no? Ed è una domanda, non è un tentativo di risposta. Se tentassimo di interpretare questo decalage tra lo Hegel concreto e lo Hegel astratto in termini di sociologia degli intellettuali, no? Forse potremmo dire che quelle strane figure sacerdotali che compaiono richiamandosi ai greci e non ai moderni, no? Negli scritti di Jena, come i detentori del potere, no? Questi vecchi che sono già morti alla vita e che per questo possono, no, essere i rappresentanti dell'assoluto. Ecco, è possibile che sia il tentativo vaghissimo di inserire un terzo gruppo accanto ai due gruppi che di fatto esercitavano il potere o tentavano di esercitarlo, cioè da una parte la monarchia e la nobiltà, dall'altra la burocrazia. Cioè Hegel non è affatto in questo periodo un ammiratore della burocrazia. In uno degli scritti di Jena, no, dice addirittura molto grecamente, molto classicamente, no, che gli impiegati sono gli schiavi pubblici, in certa misura, no? Una cosa che poi dirà Adam Müller 10-15 anni dopo. Ecco, in questa formulazione è possibile pensare che ci fosse una specie di orgoglio di ceto intellettuale per cui gli intellettuali, ma forse si dovrebbe dire i filosofi, si presentavano come i remoti aspiranti al potere con una funzione appunto vagamente sacerdotale, perché essi non avevano né le competenze tecniche, amministrative, giuridiche, né il potere reale, cioè la spada, no? per ottenere l'obbedienza, in fondo. Ecco, questo è un problema, no? È un problema. Non ritengo, francamente, che andare molto avanti su questi scritti ci permette di tirar fuori la fonte della filosofia del diritto più tarda, perché nella filosofia del diritto più tarda allora entra in gioco davvero una esperienza dei fatti politici, no? Che anche qui però ci suscita tutta una serie di difficoltà, perché è verissimo quello che diceva il dottor Brueger sul fatto che Hegel era molto bene informato, molto meglio informato di Kant, però anche sul tipo della sua informazione, quando per esempio lui negli anni in cui è entusiasta per Napoleone, no, definisce Praia Monarchie l'impero napoleonico, no? Poteva pensare sul serio che la manipolazione della propaganda che Napoleone faceva con estrema abilità, almeno per i suoi tempi, almeno pareva, no? Perché poi tutti i regimi di questo tipo si dice che esercitano bene la propaganda finché restano in sella, no? Ecco, quando poi cascano si dice hanno venduto fumo. Ecco, ora nel 5 Napoleone faceva molto bene, no? Allora, possiamo pensare che Hegel ritenesse davvero che fosse una fraia monarchia, quella nella quale c'era un imperatore, un corpo di funzionari e una stampa al servizio del potere che diffondeva delle parole d'oro degli ufficiali? Non credo, ecco, che Hegel fosse molto completamente convinto, oppure intendeva dire qualche altra cosa che io non riesco assolutamente a interpretare. Sempre in questo ordine di problemi, io vorrei fare una notazione sulla relazione di Pascale. Farle appunto anche qui, nel senso, una domanda che poi, se volete, anche banale, perché si richiama a delle affermazioni che tutti conosciamo, che ha fatto Carl Schmitt nella politica romantica, cioè questo fenomeno curiosissimo di intellettuali di origine borghese, nel caso di Stahl addirittura ebreo, anche se ebreo convertito, che diventano i teorici di una ständische Verfassung. E poi scopriamo, andando a vedere, che parlano della funzione degli stände e della nobiltà, ma non hanno nessuna simpatia per la nobiltà. Cioè, se andiamo a vedere i loro rapporti con i ceti nobiliari, forse Schmitt ha esagerato un po' nel rapporto Gentz-Metternich o nel rapporto Metternich-Friedrich Schlegel o Adam Müller, ha esagerato un po' forse, però nel nucleo c'è una sostanziale verità. La antipatia o la diffidenza era reciproca, no? E il curioso è che questi teorici tedeschi non fanno neanche quello che fanno i loro colleghi francesi dall'altra parte del Reno, perché in questi anni, poco prima o poco dopo, quando per esempio Thierry, quando Mignet vogliono rivendicare la antichità dell'organizzazione parlamentare, si richiamano alle commune francesi, cioè sostengono che le città di origine romana avevano sempre goduto di libertà e per conseguenza la Camera Bassa era in fondo il rinnovamento di questa libertà antica, come aveva detto già Montesquieu, insomma, no? Ecco, i tedeschi, curiosamente, non si richiamano quasi mai all'ordinamento, alle antiche autonomie municipali. Ecco, lo fa Niebuhr, perché Niebuhr è uno storico, lo fa Savigny, no? Però si richiamano a città dell'alto medioevo, che non avevano più nessuna corrispondenza con le autonomie cittadine. Ora, anche qui io trovo, no, una curiosa discrepanza che non è facile spiegare tra chi voleva in fondo, nella ständische Verfassung, introdurre anche elementi in certa misura, tra virgolette, borghesi, no, e il non evocare assolutamente questa tradizione di autonomie cittadine che pure in Germania, almeno nelle Reichsstädte, aveva avuto una sua tradizione sino alla caduta dell'impero. No? Ecco, e anche qui allora io mi domando, per dirla molto brutalmente, fin dove arriva il progetto politico e fin dove arriva la propaganda, no? Cioè, fino a quando si elabora qualche cosa che sia pure ad alto livello, è suscettibile, non nella realtà, nella Wirklichkeit, no? Ma nelle intenzioni dell'autore, di trasformarsi in ordinamento politico, e quanto si fa semplicemente una ricerca di consenso, cioè una operazione culturale che è volta a costruire dei quadri per i quali, per esempio, anche la Mitherrschaft, finisca per essere una soddisfazione data all'opinione, un freno allo strapotere monarchico e burocratico. Ecco, però, quello che voglio dire, a patto che non venga esercitata. Ecco, è un potere limitativo che esiste o del quale si riconosce l'esistenza. Però non si crea niente che permetta a questo potere di esercitarsi. Ora io penso che, scusate ma finisco subito, io penso che qui ci sia un problema, che ci siano alcuni dati, scusate, non un problema, alcuni dati, che permettono di dire che le cose non erano poi così diverse da una parte e dall'altra terreno. Perché se noi guardiamo i discorsi parlamentari del capo dei dottrinari, Noyer Collard, nei primi 5-6 anni della monarchia restaurata, cioè fino a quando Noyer Collard non passò all'opposizione, che allora disse cose molto diverse. Ma nei primi 5-6 anni, Noyer Collard, per esempio, sul tema che viene sempre fuori, perché è ovvio, dell'approvazione del bilancio, fa dei discorsi che sono assolutamente simili a quelli che fa Hegel, no? O a quelli che fanno i tedeschi. Cioè lui dice che in linea di massima l'approvazione del bilancio si dà per scontata. Cioè non c'è nemmeno da pensare che una Camera rifiuti il bilancio. Perché se la Camera rifiuti il bilancio si ha una crisi costituzionale. Quindi allora la Camera, uno si può domandare, che cosa ci sta a fare? Beh, la Camera ci sta a fare proprio a scopo deterrente, cioè è lì per impedire con questa sua possibilità di intervento le estremità di un potere assoluto o di un potere burocratico. Però quando si va a vedere le forme reali di intervento, allora noi ci accorgiamo che anche molti liberali francesi sono estremamente cauti, sono estremamente cauti perché hanno tutti davanti agli occhi l'incubo di quello che è successo in Francia tra il 1789 e il 1790, quando cioè una monarchia parlamentare era crollata proprio per i conflitti insanabili tra la corona e il Parlamento. Ecco, io penso che se noi ci vediamo in questa prospettiva, molte di queste considerazioni degli autori tedeschi, che lavoravano in un ambiente evidentemente molto diverso da quello francese, ma con problemi che non erano, a mio avviso, molto dissimili dal punto di vista dell'ingegneria costituzionale, no? In questa prospettiva appunto dell'incubo della fine di un esperimento appena iniziato e tutto sommato ritenuto estremamente precario e fragile, beh, forse allora anche i bizantinismi, no, finirebbero per acquistare qualche significato. Sono domande che ho proposto, mi intendo. Grazie. Altri interventi a questo punto su entrambe le relazioni. Herr Hammerstein. Dass Sie mich verstehen. Ich werde langsam sprechen. Ich habe zwei Fragen, um es sehr kurz und sehr deutsch zu machen. Die Auseinandersetzung, die Kritik Hegels am Naturrecht nimmt eigentlich nur ältere deutsche Kritik am westeuropäischen Naturrecht auf, an Hobbes. Und insbesondere seit Rousseau ist das kein rechtes, wirkliches Problem der deutschen Staatsphilosophie mehr. Haben Sie in Ihren Schriften, das ist die Frage, gefunden, Sie haben ja darauf verwiesen, dass Hegel bewusst an Rousseau anknüpft. Die zweite Frage, der Versuch, Stände wieder einzuführen, Sie haben es gerade auch genannt, nach dem württembergischen Vorbild, wo er herkommt, ergibt sich notwendigerweise nach der Französischen Revolution als die Möglichkeit, einen neuen Staat aufzubauen. Und da geht er sehr historisch vor, und ich als Historiker bewundere, wie Sie und Hegel das abstrakt konstruieren, wie das aber praktisch, historisch auch abzuleiten wäre, was er tut, aufgrund seiner Erfahrungen auswirken werden. Das ist also eine Frage und eine Anregung. Ich hoffe, Sie haben mich verstanden, wenn ich Sie übersetze. La seconda ha detto, no, che dice che dal punto di vista anche storico, come si può pensare la tesi di, cioè dal punto di vista storico anche Hegel ha avuto delle esperienze tali che lo portavano necessariamente dopo la rivoluzione francese a ipotizzare, cioè a vedere come unica possibile una soluzione eccezionale del problema politico. Allora lui si chiede, o non meglio, ti suggerisce come mai tu ci sei arrivato dal punto di vista astratto, cioè tu e Hegel, cioè tu seguendo Hegel hai usato un procedimento astratto, è giusto così, no? Cioè hai usato un procedimento astratto per arrivare a qualche cosa che probabilmente Hegel traeva invece molto concretamente dalla sua esperienza politica. No? Da Württemberg. Invece la prima è la capita. Cioè, quali sono perché ci sono dei riferimenti precisi a Rousseau e dei riferimenti, cioè lui dice che secondo lui Hegel fa dei riferimenti alla vecchia teoria naturalistica, giusnaturalistica occidentale, cioè soprattutto a Hobbes, e però ti chiede se ci sono dei riferimenti concreti a Rousseau, no, in questi scritti che tu hai. Credo che così, no? Ma no, perché... non intervengo, cioè sì. Intervengo e non intervengo, cioè perché sono un pochino stimolato dal richiamo a Savigny, perché in questo problema della costituzione scettuale, della riflessione di Hegel su, appunto, sul come riproporre una soluzione che anche per Hegel è scettuale, almeno adesso semplifico molto per brevità, e qui ritorna in campo il problema Hegel-Savigny. Con questo non voglio sollevare una polemica che credo sia appena avviata o appena in corso, però certo un dato a noi giuristi risulta che nelle costruzioni, nelle soluzioni poi concrete, politiche, costituzionali, giuridiche, teoriche, dottrinali, date nel corso del secolo, la linea che passa è quella di Savigny, mentre quella di Hegel rimane assolutamente marginata, e quindi sorge qui un interrogativo: perché? E credo che le indicazioni che venivano prima da Cesa siano certamente da raccogliersi con grande attenzione. Lì c'è un tentativo che non è soltanto di mera conservazione da parte di Savigny, di mero ritorno, diciamo così, al sistema del diritto comune. C'è un tentativo di, come dire, di portare in qualche modo il grosso del sistema del diritto comune in un meccanismo però che si vuole rinnovare, che in qualche modo si concretamente si rinnova. E questo probabilmente è l'elemento che può darci la traccia per un tentativo di spiegazione su questa diversa fortuna. Il tentativo di Hegel, appunto, si divarica immediatamente in una forbice, da un lato, costituita da un lato dalle riflessioni concrete, Württemberg, eccetera, e dall'altro invece una riflessione teorica che poi non ha riscontro, vabbè, ma comunque non voglio sollevare la questione Savigny, se no veramente... No, beh, però è importante perché lui dovrebbe in realtà portare qui Savigny, no? Invece poi non ci sta per ragioni di tempo, però è importante sottolineare che sapremmo fare anche Savigny, se volessimo, avremmo anche la possibilità di fare Savigny. Altri interventi, Ornaghi? Io volevo soltanto portare una parzialissima e prima conferma della validità dell'ipotesi formulata da Carlo De Pascal. Assai significativamente, Stahl è molto richiamato, però citato, ho letto puntualmente, ma molto richiamato, dei corporativisti fascisti, quindi di questo secolo, dei corporativisti dell'Ottocento. Fra i due testi più letti e che tendono appunto una lunga ricostruzione dell'idea di rappresentanza professionale corporativa, ma sui termini generali, fornire qualche chiarimento, degli anni 30, che sono i libri di Mattenza Leon e di Lavergne, Stahl ha una grande, ha una cospicua posizione. Lo ha perché in prima di tutto ricostruzioni storiche della Ostendice per questo punto di era, parte 21, viene più volte richiamato. La ragione di questi richiami sta proprio in quell'indiadi che tu, secondo me, indicavi correttamente. cioè tra circolità e rappresentatività. Più che il principio monarchico, Gestalt viene appunto colto il tentativo di armonizzazione tra l'intero, o comunque l'unità decisionale, e questi interessi circolari che erano in quel momento interessi sempre più disegnati. Quindi quello che importa di stare appunto la legittimazione di un qualcosa che continua a rimanere esistente. Altrettanto significativamente Stahl esercita un influsso anche sul corporatismo cattolico del 1800, sul Comune di Friburgo ad esempio, anche se forse su questi opera di più l'influsso di Goebbels, che appunto celebrato assai più e direi meglio la naturalità del principio circolare. Sta forse anche qui una possibile risposta, non dirò che è dentro una risposta, ma una possibile risposta al problema sollevato dal professor Cesare. Ci sono perfettamente d'accordo che non ci siano grossissime differenze al di qua e al di là del Reno, soprattutto, e giusto la terminologia, rispetto all'ingegneria istituzionale. I conservatori italiani della seconda metà dell'Ottocento riprendono questi stessi progetti istituzionali. Anche se personalmente darei forse minore importanza al discorso sulle autonomie locali, in questo senso almeno, che all'interno della tradizione francese il peso delle autonomie locali a livello dottrinale, che sicuramente è molto più forte, è la vecchia antitesi seicentesca, no, fra la Valle du Po e il Bourbier, e nel Settecento con Pio Montesquieu da Gensoni. Però secondo me è importante il dire non sono bizantinismo e quindi sono elementi importanti, perché al di là del discorso di scende c'è il discorso di capire della modernità, se vogliamo, di questi autori, che cosa caratterizza in quel momento gli Stendhal. Non è un caso che sia proprio Stahl, se la memoria non mi inganna, a parlare di Berufs und Lebensweise, cioè l'elemento professionale che poi diventerà l'elemento economico. Quindi, come dire, il tentativo di individuazione del cetto, che cosa sia il cetto, è l'elemento che fornisce concretezza a questi schemi teorici. Ottimo, altri interventi? Ecco, no, io mi limiterei però a vorrei sottolineare in maniera molto decisa questo ultimo intervento di Ornaghi, perché credo che questo sia molto importante. Io avrei voluto chiedere alla Cara del Pascale appunto in che misura fosse possibile trovare in Stahl esplicite ammissioni che gli stende a cui lui sostanzialmente si riferiva non erano necessariamente gli stende a legittimazione tradizionale, cioè in primo luogo la nobiltà, ma assai più gli stende di nuova formazione, insomma, gli stende di nuova legittimazione, cioè questi a cui si è riferito adesso Ornaghi. Quindi mi sembra che questo sia molto importante, ed è molto importante soprattutto in quanto si accetti, come io sono sempre più portato ad accettare via via che studio la storia tedesca dell'Ottocento, la caratteristica cetuale di fondo che il sistema politico e sociale tedesco conserva, a mio avviso durante tutto l'Ottocento, quindi anche durante tutto il Secondo Impero, e a mio avviso anche dopo, cioè nel senso che questa caratteristica cetuale, ma forse bisogna trovare un altro termine, insomma, perché questo qui è improprio, irrisolta in termini moderni, cioè in termini di comprensione, in termini di ingegneria costituzionale dopo il crollo della Germania Guglielmina, secondo me costituisce una delle ragioni di fondo, proprio materiali, della tragedia della Repubblica di Weimar. Quindi credo davvero che questa sia una struttura portante del Sonderweg tedesco, credo che il vero Sonderweg tedesco sia questo. E cioè, in questo senso, probabilmente anche la battuta sul bizantinismo di Sattler è interessante, no? Così come è interessante la risposta che ha dato Cesare, ma insomma, cioè, in fondo, bizantinismo in quanto incapacità finale, endgültige proprio, no? Finale di dare una soluzione moderna a questa conformazione per ceti, per corpi, insomma, che non riusciva a liberarsi del tutto della sua origine tradizionale. Quindi in questo senso veramente un po' bizantinismi queste cose, ma nello stesso tempo anche però impegno di ingegneria costituzionale. Ecco, irrisolto, però forse in fondo, irrisolto per via di cortocircuiti continui che la storia tedesca ha poi avuto nel corso dell'Ottocento, no? Poderosi, con Bismarck per esempio, poderosi però un po' cortocircuiti, sì, cioè esterni insomma, ecco, più che benedetti. Quindi in questo senso anch'io chiederei se è possibile dare distale, dell'attenzione distale per gli stand, questo tipo qui di cose. Se non ci sono altri interventi su... Ah no, ecco, esatto. Io credo che si deve allargare il campo di studi. Se il problema è la rappresentazione nella società tedesca dell'Ottocento, dobbiamo leggere Thomas Mann. Per esempio, un politico. Dobbiamo vedere che Goethe e il mondo letterare, questi erano i rappresentanti della società, ma se ne fregavano della politica, per mettere una parola italiana nel contesto tedesco, non si occupavano della politica. E anche Bismarck era una figura che non aveva nessun contatto con quella Germania spirituale, letterale dell'Ottocento. Perciò io credo che certamente il problema è della società tedesca, il problema della rappresentazione, ma non diviene politico, non è politico, è una soluzione che rimane nella ingegneria costituzionale, e certe personalità della nobiltà si trovano a ingegnare quella macchina, quel secondo Reich, ma i veri rappresentanti spirituali della società borghese non entrano nel campo politico, non si occupano della politica. Krüger e poi Conte. Mi raccomando che di ricordare che poi c'è una seconda, c'è una parte finale ancora del pomeriggio. Krüger. Sì, non posso dividere questa visione, perché noi abbiamo veramente durante la prima metà dell'Ottocento, abbiamo veramente una offensiva, mi sembra, della Bildungsbürger vom Liberale. Allora, sotto questo aspetto, l'idea che Stahl fa infatti anche la propaganda contro questa offensiva del Bildungsbürgertum, ci sono Gabinius, tutti questi professori liberali del... Politici professori. Politici che è un politico. No. Comunque, che mi sembrano anche rappresentanti di un ceto relativamente omogeneo. Penso che la depolitizzazione comincia veramente negli anni 70, nonostante c'è Goethe che magari ha avuto una vista un po' molto generale. Comunque. Ok. Conte. Sì, brevissimamente, rispetto a quello che avevi detto proprio tu a proposito della continuità dell'elemento cirquale, Stendisch, come struttura della storia tedesca, che mi sembra naturalmente un aspetto assolutamente centrale anche della tematica del Sonderberg, però mi chiedo anche se un approccio, ecco, di Verfassungsgeschichte comparata non ci potrebbe portare delle sorprese rilevanti. Se cioè noi non siamo portati a volte ad esagerare l'aspetto Sonderberg della Germania, se è un approccio di storia sociale di questo tipo rispetto alla Francia e all'Inghilterra, per esempio, non ci porterebbe grosse sorprese. Non dimentichiamo che la Germania è il paese della SPD e della sua base di massa, e che la Germania è il paese delle interessi interventi a quel livello di base di massa, delle Agitationsverbände, per esempio. Certo, in un'ottica di storia politica, naturalmente strumenti della reazione delle élite, ma in un'ottica di storia sociale, in un'ottica diversa, anche strumenti indubbiamente della mobilitazione sociale. Allora darei la parola di nuovo a Duso, per se credi di... No, devo dire che mi collego all'atteggiamento della Balestreri, cioè le domande... No, credo sia importante che sia il senso anche, voglio dire, di queste riunioni, Sì. È il senso che le domande sono in realtà contributi di cui noi teniamo conto. Certo. Detto questo però anche per rispondere. E innanzitutto a Krüger. Beh, è vero che Hegel ha una comprensione e un'attenzione per alcune manifestazioni tipiche della moderna società o di quella che è appunto chiamata società civile, e i testi a cui io mi sono rivolto, che ho guardato in modo particolare questa volta, sì, quelli non pubblicati, mentre il diritto naturale e il sistema dell'eticità sono ben pubblicati, cioè quelli di Jena, anzi sono esattamente in Hegel le pagine in cui maggiormente mostra consapevolezza di queste tematiche, il lavoro astratto, l'emarginazione dal lavoro di grosse masse, eccetera. Ecco, però io non mi sento di condividere quello che è un atteggiamento che è stato prevalente nella recezione, nell'interpretazione hegeliana dell'ultimo decennio, almeno a livello di diffusione, quello che interpreta Hegel congiungendo le teorie politiche che emergono attorno alla rivoluzione francese e il concetto di società che proviene dall'economia politica. A me pare che questo schema sia totalmente fuori dell'orizzonte hegeliano, o meglio, sia totalmente dentro, ma non come caratterizzante, ma anche come superato. E allora io mi chiedo, non è pur proprio nelle stesse pagine, o meglio, nelle pagine immediatamente successive a quelle in cui Hegel parla del lavoro astratto, delle condizioni del lavoratore all'interno, appunto, di questa lavorazione moderna, della necessità del compiersi fino in fondo di questi livelli di astrazione, no? Non è nelle pagine immediatamente successive, quelle appunto intitolate Costituzione, che mostra la centralità dei ceti e la necessità che questi livelli di astrazione siano continuamente piegati a quella realtà che è l'individuo all'interno del proprio ceto. Ecco, allora, ancora per procedere su questa strada, non è pur vero che la tematica del Pöbel, e qui mi congiungo a quanto diceva appunto anche De Sanctis, appare poi nei lineamenti di filosofia del diritto non necessariamente all'interno, non direttamente collegata alla sua analisi economica, ma piuttosto nel paragrafo in cui parla della polizia e quindi del rapporto politica-economia, toglimento delle contraddizioni che sono proprio dell'ambito economico. Cioè, a me pare allora che il modello all'interno del quale, o l'ambito teorico all'interno del quale Hegel riflette su queste tematiche, anche sulle tematiche economiche, non sia immediatamente quello dell'economia politica, di questa scienza tipicamente moderna che è l'economia politica, e d'altra parte non sia quello a livello politico che emerge nel concetto moderno di rappresentanza attorno alla rivoluzione francese, sia il rimando del politico a una società che è una società di produttori. Ecco, da questo punto di vista quindi certo si può dire che Hegel è moderno, Hegel è attento alle realtà che stanno a lui di fronte, però mi sembra che non interpreti queste realtà con queste chiavi. Anzi, mi pare che se è vero che Hegel per primo in modo compiuto in Germania distingue da un punto di vista concettuale società civile e Stato, come terminologico, a livello proprio terminologico, a me pare anche, per quello che ho detto, ma soprattutto per quello che sarebbe da dire, che nel concetto di Verfassung si mostra l'impossibilità di intendere il moderno attraverso questa distinzione concepita come autonomia di sfere, no? come reale separazione di sfere. Nella Carpaccio mi pare che c'è l'intreccio di due elementi e l'elemento cettuale è proprio quello che li congiunge, quello che mostra questo difficile stare assieme, questo... Per quel che riguarda il quanto ha detto De Sanctis, appunto concordando in buona parte con tutto quello che ha detto, volevo rilevare che la critica di Hegel a Hobbes non è certo mera contrapposizione, ma è in buona parte, io ho cercato di mostrarlo per tutto il giusnaturalismo, è ripercorrimento critico, no? E quindi certo anche mantenimento. E non a caso alcuni autori, in parte polemicamente, Strauss, mostrano questo rapporto Hobbes-Hegel, in parte più, in modo più analitico, no? Leggendo Hegel, per esempio, Sip, nel testo e in saggi vari che ha scritto sulla Herkenning, che vede Hobbes presente proprio nel momento costruttivo del riconoscimento, della lotta per il riconoscimento all'interno del discorso hegeliano. Penso che questo ripercorrimento critico, certo, è superamento ma anche compimento del giusnaturalismo se è vero che la radicale critica al modello giusnaturalistico è fatta nella direzione di un'unità organica tra individuo e Stato che, secondo Hegel, con il modello giusnaturalistico non è realizzata. Ma l'intento del giusnaturalismo è esattamente, nelle diverse posizioni, è esattamente questo. Per quel che riguarda quanto appunto diceva il professor, lo ringrazio perché proprio è un contributo, come ho detto all'inizio di questo mio tentativo di risposta. Beh, devo cercare di allontanare un equivoco, perché io parlo di alcuni testi, ho attraversato alcuni testi non pubblicati, o perché io non mi sono rivolto ai testi politici che, come ho detto nell'apertura della mia relazione, secondo autorevoli indicazioni, sono quelli fondamentali per vedere il rapporto di Hegel con queste tematiche. Beh, per due motivi. Uno molto semplice: questa mia ricerca a questo livello è il compimento di una ricerca collettanea sulla tematica del contratto. Allora, Hegel evidentemente la critica al contratto, o meglio, la tematica del contratto non la trova nelle strade tedesche e neanche in quelle francesi, la trova piuttosto nei modelli teorici che sono stati elaborati all'interno di quel processo complicato che ha posizioni opposte, diverse, che è il giusnaturalismo. E quindi mi sono affidato soprattutto non ad appunti non pubblicati, ma soprattutto a quei due testi, Diritto naturale e sistema dell'eticità, che sono il più completo, anche se iniziale, raffronto e percorrimento che Hegel fa di queste posizioni giusnaturalistiche. I testi di Iena... Il sistema dell'eticità è posto. E postumo c'è più. Come si chiama? Si presenta nella veste, come dire, di un testo che non è collazione di appunti. Ah, sì, certo. Sì, come, certo. Ecco, da certo, questo punto di vista, cioè un testo compiuto. Naturalmente, per l'analisi poi. Del rapporto che Hegel ha con la tematica cettuale, mi pare che la via aurea è quella di passare attraverso questi testi politici. Ricordando però una cosa, che per Hegel questo momento di attraversamento logico non è certo marginale, nel senso che ben si sa che Hegel in quello scritto appunto sulla Costituzione della Germania, ma questa poi è la sua posizione sempre ribadita, afferma che teoria dello Stato c'è solo se lo Stato è Stato reale, non un modello astratto dello Stato. ma è anche vero, naturalmente, che reale non si identifica certo con ciò che empiricamente e storicamente si trova. Quindi l'importanza dell'imporsi di un certo tipo di tematica, non solo per il rapporto storico, ma anche per la necessità logica, e qui allora tocco anche una domanda che mi era stata fatta da Hammerstein, mi sembra particolarmente importante e significativo, pur limitando appunto il mio intervento al fatto che questo intervento si riferisce allo Hegel critico del contratto all'interno della storia appunto delle teorie del contratto. Mi pare molto importante quello che Cesare ha detto a proposito del terzo gruppo o dell'intervento del momento dell'intellettuale. Mi pare molto importante anche perché tocca quello che secondo me è un filo rosso che abbiamo non solo all'interno di Hegel o all'interno di alcuni intellettuali tedeschi, ma forse un'altra volta anche di tutta la storia del giornalismo, perché se uno pensa al modello hobbesiano e si chiede perché è necessaria questa sovrumana potenza che è il sovrano all'interno dello Stato, mi pare che leggendo i testi vede che questa sarebbe radicalmente superflua se tutti gli uomini non sentissero il dovere morale, ma comprendessero la necessità logica. Allora uno si chiede, se tutti capissero, se tutti fossero, cioè, sapienti, non ci sarebbe nessun bisogno dello Stato. Perché lo Stato è necessario? Perché ci sono gli ignoranti. E chi lo fa il contratto? Non certo coloro che vedono lo Stato come un'imposizione perché non capiscono che la loro libertà e indipendenza è realizzata dallo Stato. Potrebbe sembrare, e forse qua ci sono alcuni elementi di storia delle idee che possono rappresentare questa tesi, che allora il contratto è fatto proprio dal ceto degli intellettuali. Se noi ripercorriamo le varie posizioni, quella di Locke, quella di Pufendorf, a mio avviso ritroviamo questo filo rosso. Se poi noi arriviamo al concetto di contratto originario come idea regolativa in Kant e al concetto di volontà generale che è sempre al di là di ogni sua determinazione formale e che forse noi andiamo a ritrovare nel rapporto tra il pubblico e il suo servitore, vediamo che questo filo rosso probabilmente prosegue e diventa ancora più importante all'interno di quelle posizioni che sottolineano l'elemento rappresentativo, appunto, come sono quelle di Kant e di Fichte. Io penso che probabilmente da questo punto di vista un'altra volta Hegel è collegato, anche se poi in realtà per in buona parte lo capovolge, nel senso che il significato dell'opinione pubblica mi pare radicalmente diverso in Hegel da quello che era in Kant e anche in quel primo Fichte che propone appunto la libertà di pensiero. Mi pare che però questo filo rosso forse prosegua. Per quel che riguarda mi pregherei di stringere un po', perché altrimenti l'ultimissima cosa, penso che in qualche modo ho spiegato o giustificato il perché del procedimento astratto, che è contingente per quel che mi riguarda, è non direi totalmente contingente, a mio avviso, per quel che riguarda Hegel, che si muove appunto su questi due fronti, quello dell'analisi del reale e quello delle strutture logiche. E non a caso rimanda alla scienza della logica in moltissimi passi dei lineamenti di filosofia del diritto. Per quel che riguarda invece la prima domanda, Rousseau, certo c'è il rapporto con Rousseau, ma il rapporto con Rousseau al di là di Hegel c'è in Kant e in Fichte. Allora, a mio avviso, nel discorso hegeliano, Rousseau innanzitutto c'è quando direttamente Hegel mostra di averlo presente nella fenomenologia e poi nei lineamenti di filosofia del diritto, ma Rousseau c'è, come sottolineano gli interpreti, anche in questi scritti in del 1805-1806, là dove emerge il concetto di volontà come fondamentale all'interno dello Stato, e a mio avviso il Rousseau si può ravvisare anche nell'analisi del diritto naturale che passa attraverso Kant e Fichte. Anche lì l'elemento della volontà, no, mi sembra particolarmente presente, anche se immediatamente. Pascale. Io pochissime parole, volevo tornare un momentino a questo problema, cioè della Mitherrschaft dei ceti. Sono assolutamente d'accordo che tale Mitherrschaft non viene promossa, nel senso che non viene suggerita nessuna misura pratica per facilitare. Ecco, semmai volevo un momentino sottolineare quello che poi in fondo ho già detto nell'esposizione, cioè questa posizione di Stahl un po' sul crinale di due epoche, ecco, magari richiamandomi un momentino al problema della collocazione di Stahl rispetto al pensiero conservatore, cioè uno dei motivi per cui sembrava interessante occuparsi di un autore di questo genere era anche quello di vedere come lo svolgimento del pensiero conservatore in Germania, che noi sappiamo dal primo romanticismo fino agli ultimi, fino alla restaurazione matura, essere un pensiero molto, molto articolato anche al suo interno. Ecco, questa posizione di Stahl, vedere in che cosa consisteva questa posizione di Stahl, tenendo conto anche di due elementi molto diversi che ci vengono dalla storiografia e dei quali accenno ora, non ho accennato prima, cioè da una parte questo Stahl appunto come così, esponente di punta del partito conservatore tout court, quindi non ho neanche accennato in questa mezz'ora di esposizione per esempio ai rapporti con i fratelli Gerlach e alle eventuali differenze che si possono rilevare tra queste posizioni, e invece una interpretazione che ha preso recentemente piede o sta prendendo recentemente piede, cioè quella dello Stahl teorico del Reichsstaat, e quindi molto proiettato in avanti rispetto invece agli altri, al pensiero della restaurazione. Ecco, in questa strana posizione che Stahl viene a occupare, credo anch'io che ci sia appunto questo problema di mantenere la presenza dei ceti per tutto quello che sappiamo, però nello stesso tempo di sottrarle efficacia pratica, diciamo. Ecco, poi mi era venuto, questo non è uno spunto di discussione, non so, per domani o per un'altra volta, perché adesso veramente non c'è tempo, ma il professor Cesa accennava al problema delle amministrazioni delle città. Io avevo voglia di tentare un raffronto, anche se non so quanto sarebbe stato produttivo e interessante, ma insomma un raffronto fra Stahl e Freiherr von Stein. Ecco, viene da pensare che come Stein ha così con forza affrontato il problema della Selbstverwaltung e appunto sapendo quali sono stati i risultati o quali potevano essere i risultati anche teorici di questo problema della Selbstverwaltung, probabilmente Stahl si è ben guardato dall'inserirsi in una direzione che lo avrebbe portato molto, veramente molto lontano da quelli che erano invece i suoi interessi. Ecco, ricollegandomi a quello che dicevo prima rispetto alla collocazione particolare di Stahl nel pensiero conservatore, devo dare una risposta, ma qui velocissima, perché credo che la risposta poi in realtà non esista, ma dipenda soltanto dal tipo di filosofia che ognuno di noi sceglie, cioè dal tipo di collocazione e di orientamento che ognuno di noi ha. Cioè, io non riesco assolutamente a capire, capisco che esista come problema, non riesco a spiegarlo, a dare a me stesso una risposta, quello della impoliticità del pensiero conservatore. Non saprei dire se poi nella seconda metà o alla fine dell'Ottocento, per questa seconda parte del secolo, questo si possa dire, perché è un problema che non ho studiato. Però per quanto riguarda il primo Ottocento, visto che probabilmente probabilmente anche per il tipo di studi che ho condotto e per il tentativo che ho fatto, che era invece quello di condurre un raffronto fra la storia delle istituzioni e alcuni documenti che la storia costituzionale ci presenta, e invece gli scritti di questi autori, parlo di Stahl, ma qui veramente si potrebbe parlare di tutto il romanticismo tedesco, ecco, allora non riesco. Da questo mio raffronto sono invece venuti fuori degli elementi di contatto immediato, e quindi non riesco a collocarmi in quella visione del mondo per cui, cioè, che sottolinea l'impoliticità di questi pensatori. Un problema invece molto grosso, e che valeva la pena e varrebbe la pena affrontare con calma, e tra l'altro io così avevo anche appuntato qualcosa, ma è una parte che ho dovuto tagliare, riguarda il tipo di stand, di stand di fronte al quale ci troviamo. È un problema enorme che non si esaurisce in qualche minuto. Posso solo dire che a mio parere non ho esaurito la lettura di Stahl, perché credo che questo non sia possibile neppure nell'arco di alcuni anni, però ecco, nelle opere di Stahl che ho visto, e soprattutto nel movimento di pensiero che queste opere contengono, credo che si possa dire che una buonissima percentuale, una grossissima percentuale di volte in cui ricorre il termine o il problema stende, questo termine, questo problema ricorra nell'accezione altocettuale, nell'accezione tradizionale del termine. Però forse vale la pena, anche in relazione alle osservazioni che faceva Ornaghi, forse vale la pena di soltanto comunicare che in alcuni scritti, sui quali tra l'altro io mi sono basata per questa mia relazione, che risalgono agli anni 48-49, una silogia intitolata di Costituzione, di Rivoluzione, di Costituzione e Monarchia, opera della quale sono uscite due edizioni a brevissima distanza di tempo, una proprio nel dicembre del 48, che fu subito a ridosso degli eventi rivoluzionari, e l'altra nel giugno del 49, quando le cose ormai si stavano chiarendo e stavano prendendo altra direzione. Ecco, in questo gruppo di saggi il problema effettivamente emerge. E emerge in questo modo. Si riprende il rapporto fra re e popolo, che è un rapporto molto frequente nelle opere di Stahl, dalle prime. Ecco, e nel parlare di questa relazione, rapporto indissolubile fra re e popolo, e nel definire il popolo der Inbegriff der Menschen, ecco, a questo punto negli scritti del 48 si ha un'ulteriore specificazione. Questo popolo, che fino al 48 era da Stahl definito semplicemente come Inbegriff der Menschen, diventa Inbegriff freier, voll und gleichberechtiger Persönlichkeiten, con, credo, chiaro influenza degli eventi rivoluzionari, o perlomeno delle problematiche, delle diverse problematiche che nel tempo andavano agitandosi. E ancora di più si parla di questo popolo che è così tanto un tale Inbegriff als eine einheitliche Gliederung mannigfacher Interessen, Berufsstellungen, Klassen und mannigfacher Verbände, örtlicher und gewerblicher Gemeinden. Lasciamo perdere tutto il problema dei Verbände, però intanto valeva la pena segnalarlo che in Stahl è presente in questo senso. Lasciamo perdere tutto il problema delle Gemeinde, che poi ci ricollegherebbe con il protestantesimo e tutta un'altra serie di problemi. Ecco, vale la pena forse perlomeno segnalare la presenza di questa così ricca definizione di popolo. Ultima notazione, poi finisco. Nella seconda edizione, cioè quella del gennaio del 49, quando si può dire i giochi erano in buona parte fatti e ormai questi Stahl e compagnia non hanno più nessun problema di veder vacillare il potere sovrano, il popolo torna a essere Inbegriff der Menschen.